Le ragioni di questa manifestazione sono per cercare di imporre un'inversione di rotta a quella attuale rivendicata dal governo anche ultimamente, insomma in continuità poi col governo Draghi, cioè quella di non investire praticamente nulla sul rinnovabile e buttarsi sul fossile in maniera senza soluzione di continuità. La scelta di Piombino non è casuale, ovviamente. La scelta di Piombino non è casuale perché in questo quadro generale di ritorno, anzi oppure di incentivazione del fossile, Piombino è centrale, come lo sarà Ravenna, perché proprio sono i due posti in cui vogliono impiantare due rigassificatori, quindi diciamo che sono emblematici in questo di questo processo, insomma. Sempre nell'economia fossile, oltre ai rigassificatori, c'è anche lo sdoganamento delle trivelle. Sì, naturalmente, siccome le ultime dichiarazioni hanno gettato proprio completamente la maschera, il progetto è quello, progetto demenziale, completamente assurdo e anacronistico, è quello di trasformare l'Italia in una sorta di hub del gas europeo, quindi di un centro fossile a livello proprio internazionale, e questo viene fatto attraverso l'incentivazione e l'introduzione dei rigassificatori, ma anche incentivando le trivellazioni che vengono avvicinate alla costa, nuovi gasdotti, cioè tutto un panorama che, se tutti i progetti in campo venissero portati a termine, si avrebbe che l'Italia diventerebbe in grado di raccogliere una quantità di gas pari al doppio di quello che attualmente consuma, considerando che il consumo dovrebbe essere in calo. È del tutto evidente che non è un discorso né di sicurezza energetica né quant'altro, ma semplicemente è un'operazione puramente commerciale e speculativa, perché si vuole fare in modo di raccogliere il doppio del gas che ne sarebbe necessario per poterlo poi rivendere, insomma, quindi, e questo con tutti i mezzi che ci sono. Si ignora totalmente la crisi climatica, ma non è servita nemmeno la lezione della crisi energetica in seguito alla guerra in Ucraina? No, assolutamente no, signora, e tra l'altro, anzi, la guerra in Ucraina è diventata un paravento, nel senso che gli aumenti speculativi ci sono stati, ma legati alla borsa di Amsterdam. Adesso i prezzi sono già ritornati, sarebbero già dovuti ritornare dal punto di vista del cosiddetto, tra virgolette, mercato, ai valori pre-guerra, cosa che invece non è avvenuto, e comunque in questo anno e mezzo c'è stata una speculazione incredibile, hanno extra profitti enormi per le aziende energetiche, e comunque invece di approfittare, tra virgolette, insomma, anche se magari non è il termine giusto, dell'occasione per abbandonare il gas e i fossili, si è buttato su una forma di fossile che è il gas liquefatto, che è ancora, se possibile, peggio di quello prima, perché prevede sia molte più perdite e quindi un impatto climatico molto più alto, è estremamente più costoso sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista economico, e tra l'altro dove viene estratto in gran parte col fracking, che è un meccanismo anche devastante per i territori. Quindi si è riusciti addirittura a peggiorare, voglio dire, quindi è proprio, c'è una chiara volontà o non volontà di fare certe cose. Per la manifestazione di sabato da Bologna partiranno dei pullman, come si può fare per prenotare? Allora, noi abbiamo organizzato insieme a varie altre realtà i pullman, stiamo raccogliendo le prenotazioni, abbiamo messo in giro una mail e il telefono per raccogliere le prenotazioni. Io le ricordo: fuori dal fossile bo@gmail.com oppure 347 28 43 345. Speriamo che ne siano tante, perché è assolutamente importante, c'è una partita estremamente importante.